Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. L'appuntamento con l'Adico, il primo di questa settimana, ci porta a parlare del decreto legge sanità, che non è più un decreto ma è diventato legge ed è entrato in vigore. Sono molte le novità in esso contenute, ne parliamo con l'Adico e con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Luca e un saluto a tutti. Allora, tante novità, gli aspetti sono molteplici, quindi vediamo di toccare quelli più importanti che magari toccano proprio i cittadini. Certo, sono importanti, sono proprio delle novità, perché in questo senso, con la fiducia che è stata approvata qualche giorno fa al governo, praticamente il governo si è impegnato a voler riorganizzare la medicina territoriale, che fondamentalmente nei confronti degli utenti dovrà diventare un servizio disponibile 24 ore su 24 per i cittadini e dovrà permettere ai dottori di regolamentare la propria attività privata all'interno delle strutture ospedaliere, che in questo senso oggi c'è ancora molta confusione. Allora, partiamo dai medici di base, che poi sono quelli più vicini alle persone, perché è il primo posto dove si va normalmente. I medici avranno il loro orario di ambulatorio, però uno potrà trovare il medico di base appunto 24 ore su 24, che non significa solo ad esempio guardia medica, ma proprio il medico di base. Sì, il decreto infatti prevede che ogni regione dovrà fare in modo di incentivare la realizzazione di unità complesse per permettere appunto ai medici di base di fornire un servizio di assistenza 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana nei confronti dell'utente, che oggi invece sappiamo può contare solo in determinati orari giornalieri e neanche continuativi per tutta la settimana. Quindi vuol dire che il medico di base dovrà mettersi d'accordo con altri dottori che esercitano la stessa attività e costituire una rete per garantire questo servizio, che ad oggi di fatto manca completamente. Potrebbe essere che uno magari si fidi, penso soprattutto agli anziani, si fidi soprattutto del suo medico, e se magari in quell'orario il suo non è disponibile, andare da un altro potrebbe creare problema? Questo sicuramente è un rischio, perché se c'è un rapporto di fiducia con un medico dobbiamo cominciare a pensare che in certi orari, in certi giorni, questa cosa non potrà esserci. Però è anche vero che dovrebbe, se organizzato bene, esserci un'articolazione turnistica adatta in modo tale che ogni paziente potrà sapere quando il proprio medico di base ci sarà in certi orari o in certi giorni, rispetto a quelli che adesso magari hanno degli orari che comunque lui era tenuto ad adoperarsi. Parliamo ora dei medici degli ospedali, i professionisti, gli specialisti eccetera, che possono svolgere la doppia attività, cioè quella come ULS, quindi con le prenotazioni, che sappiamo hanno tempi piuttosto lunghi, oppure l'attività libera professionale, quella cosiddetta intramenia, cioè all'interno delle mura dell'ospedale. Anche qui si è messo mano regolamentando la questione. Sì, qua dal mio punto di vista come Adico posso dire che è positivo il fatto che entro il 31 dicembre le aziende sanitarie dovranno fare una ricognizione straordinaria di quelli che sono gli spazi disponibili che possono dare ai dottori che vogliono praticare la libera attività all'interno dell'ospedale. Dall'altro però, con disappunto, siamo ancora lontani da dar modo ai dottori di obbligare la scelta di esercitare l'attività con il pubblico o con il privato, come molti anni fa qualche illustre onorevole aveva già tentato di mettere mano. Però comunque in questo senso è comunque un passo in avanti, perché c'è un monitoraggio e ci sarà un censimento preciso e quindi tutti quanti saranno a conoscenza di quelle che sono le cose che accadono fuori dagli ospedali e dentro le unità ospedaliere. Passiamo al tema dei giovani, se ne ha parlato tanto, i divieti che riguardano alcol e tabacchi, che non sono solo divieti di buon senso, ma adesso vengono inaspriti. Esatto, qua noi con entusiasmo approviamo questa manovra, questo articolo di legge, perché finalmente viene regolamentata la somministrazione di alcol e di tabacchi nei confronti dei minorenni, cioè l'età per poter comprare sigarette o alcol non deve essere più 16 anni ma 18 anni, chi vende, se non ha la certezza che chi acquista e sia maggiorenne ha l'obbligo di richiedere il documento di identità. La sanzione può arrivare da 250 a 1000 euro per l'alcol e fino a 2000 euro anche per le sigarette, nel caso che siano minori di età inferiore anche a 16 anni. C'è addirittura il rischio di chiusura del locale per 3 mesi se l'esercente risulta recidivo. Ecco, insomma, un inasprimento, finora era di 16 anni il limite, nessuno che ci risulta ha mai chiesto la carta d'identità, anche se magari uno di 16 è più facilmente riconoscibile di uno di 18 anni, cosa dici tu? È buona come regola, ma poi bisogna capire l'applicazione, quanti effettivamente andranno a chiedere il documento. Come hai detto te, purtroppo è così, però sapendo che c'è una legge e che l'esercente ha l'obbligo di doverlo fare, l'invito è quello di sperare che lo facciano. Addirittura noi diremmo che se qualcuno capita di notare che qualche esercente rifila le sigarette o l'alcol a dei minorenni, che segnalino pure ai vigili o alle associazioni dei consumatori questi comportamenti, perché riteniamo che in questo senso è un primo passo, ma importante per salvaguardare un po' questi minorenni che troppo facilmente cadono vittime di queste tentazioni. E allo stesso modo un capitolo molto importante riguarda quello delle slot machine e dei giochi d'azzardo, perché finalmente c'è una regolamentazione nei confronti dei minori per evitare che siano vittime da un lato di chi pubblica i giochi e dall'altro di chi li frequenta, perché oggi non c'è ancora una regola vera e propria che regolamenta la distanza di queste macchinette o di queste specie di sale giochi che ormai sono presenti un po' in tutti i locali pubblici in qualsiasi orario e vicino ai luoghi, insomma, come scuole, biblioteche e quant'altro. Certo, anche se poi uno sul magari sul cellulare o sul computer a casa può avere accesso libero, ma lì si tratta di zona privata e è molto più difficile regolamentare, no? Sì, è certamente molto più difficile. Sappiamo che con internet certamente la cosa è più difficilmente controllabile. Poi anche qua dobbiamo lanciare un appello ai genitori che in questo senso vigilino loro, perché noi riteniamo che il primo controllo dentro nei confronti di un minorenne deve avvenire dentro le mura domestiche. Quindi l'augurio è che tutti questi sforzi possano andare nella stessa direzione e che non si trovino quelle strategie, non diventino dei pretesti poi per trovare alternative quando magari la legge per la prima volta comincia a fare qualcosa anche in questa direzione. Altro tema che era uscito nel dibattito e sul quale poi il governo ha fatto un passo indietro era quello delle bevande analcoliche, bevande gassate, su cui si era ipotizzato di mettere una tassa. Il governo non c'è riuscito perché ci sono state le proteste delle lobby e delle grandi industrie, però qualcosa sulle aranciate si è fatto. Sì, finalmente si è fatto qualcosa di veramente interessante, perché adesso ci sarà l'obbligo sulle etichette di contenere la percentuale di frutta nella bibita, e questo limite, questa percentuale non sarà più del 12% come oggi è, ma deve salire al 20%. Quindi in questo senso le persone potranno bere dei cibi, potranno bere delle bevande che sicuramente risulteranno più nutrienti e meno, con meno presenza di sostanze, di coloranti. Un suggerimento: compratevi un chilo di arance e fate una spremuta, quella è sicuramente al 100%, così non ci sono problemi di percentuali. E con questo allora una piccola panoramica su questo importante decreto sanità, appunto, che è diventato legge ed è entrato in vigore. Con l'Adico ci ritroviamo tra un paio di giorni. Grazie Carlo, buona continuazione. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.